Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e questo programma, che parte ora, andrà avanti fino alle ore 21:30. Adesso andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Behind, il nome della band, Behind Enemy Lines, e il brano è Retribution. Questa era la sigla della trasmissione Zardins Magnetics, che è iniziata ora, e sigla che comunque stiamo usando da un po' di anni, comunque siamo anche arrivati al 2022, la teniamo ancora. Come detto, sono i Behind Enemy Lines, e ora oltre a dirvi che questa trasmissione andrà avanti fino alle 21:30 qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane di Udine, e ora andiamo all'ascolto di questa band, una band inglese, esattamente di Londra. Questo è il loro secondo album. Non ho idea se questa band esiste ancora, perché il loro secondo album, comunque anche ultima loro uscita, ed è datata 2014. Questo album si chiama Battle Side e loro sono gli, se lo dico giusto, Unfixed. Ok, andiamo all'ascolto di un paio di brani per questa band londinese. Yeah. un saluto anche da parte mia, benvenuti all'ascolto di Zardins Magnetics. Allora, stasera proponiamo dei contenuti legati al concetto di lotta intermedia, con particolare riferimento alle lotte in ambito, diciamo, per i diritti sanitari, diciamo così, all'interno delle istituzioni totali, quindi carceri, CPR nello specifico. Questi ragionamenti erano stati preparati per la trasmissione del 30 dicembre, però appunto non è stato possibile andare in onda, non per colpa nostra, ed erano stati pensati questi ragionamenti come presentazione del presidio solidale con i detenuti del carcere di Udine, di Via Spalato, che come Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione abbiamo organizzato per venerdì 31 dicembre. Allora, i ragionamenti partono appunto, hanno origine dal fatto che da parecchi anni come Assemblea stiamo cercando di fare da cassa di risonanza alle voci dei prigionieri del carcere di Udine e non solo, che ci parlano appunto di una grave situazione di degrado sanitario, di abbandono sanitario. E da questo ragionamento qui abbiamo fatto dei collegamenti con ciò che succede all'interno anche delle carceri amministrative per migranti, cioè i CPR, e però ci sono venute in mente anche ulteriori riflessioni, diciamo più storiche e teoriche anche, e quindi i nostri riferimenti sono stati questi. E siamo andati a leggere delle cose di Alfredo Maria Bonanno, da un opuscolo provvisorio, così si chiama, delle edizioni Anarchismo, che si intitola Carcere e lotte dei detenuti, e poi siamo andati a guardare questi opuscoli che sono stati curati dall'Assemblea No CPR torinese, opuscoli fatti molto bene, che parlano appunto, ripropongono, diciamo, tutto un ragionamento su che cosa sono le strutture denominate CPR, e poi specificamente parlano della sanità all'interno di queste strutture. Allora, ci dice, parto da qua, perché è importante, perché appunto la lotta, diciamo, per i diritti alla salute è comunque una lotta intermedia, e poi arriveremo appunto in maniera più teorica a questo concetto. Ci dicono i compagni torinesi in questo opuscolo, è importante mettere il dito, diciamo, mettere a fuoco la questione della sanità nel CPR, non con un intento ovviamente riformista, cioè di con l'ipotesi di migliorare una istituzione che nella sua aberrazione è ovviamente irriformabile, ma prendere sul serio le lotte per le condizioni fisiche, base, cioè di vita e quindi di salute dei prigionieri, è importante perché attraverso appunto la mala sanità, la trascuratezza, la scarsità di igiene o l'assenza di igiene totale, la psichiatrizzazione e tutte queste pratiche coercitive, l'istituzione totale, che sia CPR, che sia carcere, mette in atto il suo intento di distruzione dell'integrità psicofisica dei prigionieri. E lo può fare, cioè l'istituzione può fare questa opera di distruzione proprio perché li tiene in ostaggio, e in questa maniera, cioè minando, diciamo, alla base proprio l'autodeterminazione del corpo dei detenuti, mette in atto anche il suo intento di disaggregarli, di disaggregare quindi le lotte dei prigionieri, di isolarli e di, in pratica, mortificarne completamente le lotte. Per questo è importante, nel caso dei CPR, appunto, parlare di queste cose, sì, di questa questione, insomma, specifica della sanità all'interno del CPR e delle lotte che vengono fatte per una modifica della condizione. Ma arriviamo, prima di una ulteriore pausa musicale, arriviamo a vedere che cosa ci dice Alfredo Maria Bonanno nella nota introduttiva alla seconda edizione. Questo librino, questo opuscolo provvisorio, ha avuto due edizioni, una prima edizione nel giugno 2000 e una seconda edizione nel novembre 2013. La nota introduttiva che vi leggerò è del 2011. Ci dice Bonanno: lo schiavo che non si ribella merita le proprie catene, e nessuna condizione sollecita la rivolta quanto quella carceraria. È spontaneo, quando si vive sotto un regime coatto, pensare a ribellarsi, ma niente è più difficile da realizzare. Ho vissuto recentemente una dura esperienza nelle carceri greche, le peggiori che abbia sperimentato in vita mia, ed ho da subito pensato a ribellarmi contro le mille estreme ingiustizie che mi assalivano da ogni parte. Eppure non ci sono riuscito. Sarebbe stato un andare incontro a morte certa. Evidentemente, come ho capito dopo, anche gli altri miei compagni di sventura la pensavano allo stesso modo. Certo, abbiamo fatto scioperi più o meno della fame, del carrello e della spesa, del lavoro, chi lo aveva, eccetera. Ma in fondo c'erano ancora dei margini per respirare. Per quanto feroce fosse la condizione carceraria, di gran lunga peggiore di quella che ho sperimentato in decine di carceri italiane, si poteva andare oltre. Ecco, qual è la linea di demarcazione che spinge alla rivolta irrimediabile? Si tratta di un confronto di equilibrio col potere, e non è facile scoprire le carte di quest'ultimo, come non è facile mettere sul tavolo le carte che ognuno ha in mano, in genere modeste e di poco peso, se si esclude la propria vita. Chi guarda le mura di un carcere dall'esterno non si rende conto di come questo equilibrio sia precario e di come possa rompersi da un momento all'altro. Chi vive dentro un carcere lo sa e sta allerta. Aspetta il momento buono per colpire il nemico, che ogni sera, con accuratezza sopraffina, chiude il blindato. Il luogo estremo dell'istituzione totale è quello dove il potere mette in mostra la vera essenza di se stesso, il tessuto più intimo di cui è fatto. Qui non ci sono equivoci, tutto è bianco o nero, mancano i colori che in altri luoghi confondono le idee. Le lotte dei detenuti è per questo motivo che sono le lotte di tutti noi, anche di coloro che, provvisoriamente, sono in libertà condizionata, cioè di tutti gli sfruttati. continuiamo a parlare di lotte dei detenuti e lotte intermedie. Allora ci diceva il compagno Bonanno, le lotte dei detenuti sono le lotte di tutti noi che provvisoriamente siamo in libertà condizionata. E come dire, questa questione di essere in libertà condizionata provvisoriamente è più che mai attuale in questo momento. Allora, noi siamo andati il 31 dicembre sotto le mura del carcere di Udine per cercare di dare forza e coraggio ai detenuti e anche per cercare da loro, cioè che loro ci diano forza e coraggio, appunto per rimanere uniti. Allora, continuiamo con questo discorso delle lotte intermedie, cioè delle lotte non definitive, come ci diceva il compagno appunto nell'introduzione che ho letto, e le lotte possibili, diciamo, possibili e riproducibili all'interno delle strutture totalitarie dove appunto si viene annientati e dove l'oppressione vige alla massima potenza. E ci dice Bonanno anche: mi ricordo del monito di Malatesta che aveva in sospetto coloro che non scendono in campo se non per mettere il mondo a suo quadro e che restano sulle proprie reticenze quando si tratta di fare qualcosa, di cominciare da un punto qualsiasi dell'ampio ventaglio repressivo. Egli preferiva, se non ricordo male, cominciare ad agire, sia pure nel piccolo e nel limitato, perché aspettando la grande occasione di tutto distruggere, si finisce per non fare nulla e quindi tutto accettare. Ecco, anche questo è importante, perché da un lato valorizza tutto ciò che si può fare, appunto anche nel piccolo e nell'immediato della propria vita e della propria condizione, e dall'altro non ti lascia in pace, insomma, non ti lascia riposare nell'attesa del grande evento. Continuo la lettura dall'opuscolo. Il carcere, pur con le sue speciali condizioni repressive, non è un altro mondo, è soltanto un luogo diverso della società e quindi del potere che la società condiziona e regge, un luogo fisico e mentale in cui il potere si esprime semplificando alcune sue regole, in particolare quelle repressive. Luogo dell'istituzione totale che per questo motivo stesso rende alcune condizioni più immediatamente leggibili. Al suo interno non ci si imbroglia tanto facilmente in mezzo alle libertà, tra virgolette, di cui la cosiddetta società libera è piena fino all'orlo. In carcere tutto è più difficile, perfino fare una passeggiata, e proprio per questo tutto è più facile. Sognare, come fa qualcuno, livelli di lotta in carcere caratteristici di alcuni decenni fa, collocando al massimo di questi livelli, ad esempio, la settimana rossa della Sinara o gli scontri di Trani e di Voghera, significa non rendersi conto che non esistono livelli ideali di lotta, ma soltanto lotte che devono, ciascuna nell'ambito delle proprie caratteristiche, svolgersi con il nostro personale contributo fino in fondo, fino cioè ad esercitare tutte le loro potenzialità per svilupparsi, se è il caso, verso una sempre possibile generalizzazione dello scontro. Allo stesso modo per cui non c'è un cuore dello Stato, una contraddizione fondamentale del capitalismo, non c'è nemmeno una sola lotta da privilegiare sulle altre, ma un metodo che si rivela migliore degli altri una volta sperimentato nella lotta, e quest'ultimo è certamente il metodo della conflittualità permanente, dell'autogestione e dell'attacco, metodo che tiene lontano tutte quelle forze che non hanno interesse a far sì che la lotta si sviluppi fino alle sue estreme naturali conseguenze. Ecco, poi, insomma, continuando così a leggere qua e là, abbiamo cercato un po' di comunicarlo, anche di scambiare questa cosa anche con i detenuti il 31 dicembre. Le lotte intermedie, appunto le lotte come quelle che possono essere uno sciopero del carrello, per avere cibo migliore, per non essere trattati come oggetti dai secondini, cioè le lotte veramente per la sopravvivenza propria e collettiva, sono anche lotte, cioè hanno anche un'anima distruttiva, ci dice Bonanno, appunto. ci dice: le lotte intermedie hanno un'anima distruttiva, noi che le portiamo avanti siamo la loro anima. Passiamo all'opuscolo invece che parla della sanità all'interno dei CPR. Ci dicono i compagni torinesi, scrivono: l'assistenza sanitaria all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio non si declina solo come negligenza medica, noncuranza dei problemi di salute, ma risulta essere piuttosto uno degli elementi di controllo dei corpi di chi viene reclusa e recluso. Il potere di decidere come e se curare, che sia somministrare psicofarmaci per sedare qualsiasi tipo di protesta o minacciare una persona di non medicarla se non smette lo sciopero della fame, diventa chiaramente dominazione e disciplinamento dei corpi e delle volontà. Tali dinamiche di controllo si sviluppano lungo due ulteriori binari legati tra loro. Il primo è la falsificazione dei referti medici, i quali potrebbero permettere le deportazioni qualora non vi fossero situazioni sanitarie non idonee all'espulsione. Il secondo è l'inaccessibilità stessa alle cartelle cliniche che attestano lo stato di salute delle persone recluse. In questo mondo totalmente burocratizzato, dove avere certi tipi di documenti garantisce la presenza sul territorio, il possedimento o meno dei propri referti clinici può decretare l'esito della propria richiesta d'asilo o di una domanda d'appello. Questi sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono all'oggettificazione ed alla disumanizzazione delle persone recluse attraverso la gestione della sanità come parti fondanti di un sistema che organizza quotidianamente la morte delle persone rinchiuse. L'arrivo del virus Covid-19 non ha fatto altro che consolidare una totale mancanza di assistenza sanitaria. In un momento straordinario di epidemia globale, i centri di permanenza per il rimpatrio si sono riconfermati luoghi in cui lo Stato può gestire la vita o la morte a suo piacimento. Il suo operato si è limitato a pochi provvedimenti, non sempre attuabili, in piena contraddizione alle condizioni strutturali dei centri stessi. Lo stesso distanziamento fisico, una delle misure preventive più importanti professato all'esterno delle mura del CPR, non poteva sussistere laddove le persone recluse vengono ammassate nelle poche e piccole stanze disponibili. Mentre prefetti ed enti gestori venivano invitati a seguire prescrizioni sanitarie strutturalmente impossibili da attuare, non veniva messo in dubbio il continuo funzionamento dei centri e la reclusione di chi non poteva effettivamente essere rimpatriato. Anzi, le circolari del Ministero dell'Interno del marzo 2020 e dell'aprile 2020 raccomandavano il prolungamento della detenzione nei CPR e nei centri di accoglienza, poiché la limitazione degli spostamenti avrebbe rappresentato una forma di tutela contro i contagi, come se sulla pelle delle persone recluse si giocasse la partita della prevenzione al contagio su tutto il territorio italiano. Non solo capri espiatori dell'emergenza, ma corpi vivi sui quali lo Stato fa quotidianamente violenza, ancora più con la pretesa di pensare che la gestione del contagio possa essere amministrata attraverso la privazione della libertà, in luoghi insalubri e insicuri nei quali non si attuano nemmeno le misure di sicurezza basilari. La sicurezza, che qui viene chiamata sanitaria, diventa in realtà sinonimo di gestione dell'ordine pubblico. Solamente dati da amministrare, contagi da enumerare e contenere, rimpatri da portare a termine. Il prolungamento della detenzione viene ritenuto legittimo poiché l'emergenza sanitaria consolida e giustifica politiche securitarie. E ritorniamo a Bonanno e proprio parliamo del concetto di lotta intermedia. Ci dice: una situazione come quella carceraria rende possibile la lotta sociale con l'obiettivo di ottenere dei miglioramenti, obiettivo minimo, spesso non facilmente comprensibile nell'ottica del rivoluzionario, ma non trascurabile. Una lotta, come ad esempio il rifiuto del vitto fornito dall'amministrazione, chiamata spesso sciopero del carrello, di per sé è poca cosa, ma diventa fatto considerevole se si riflette sulla questione che, per essere possibile questa pur minima manifestazione di dissenso, si richiede un'aggregazione fra detenuti, spesso anche a livelli considerevoli, che potrebbero dirsi di massa. Senza stare ad analizzare in dettaglio il perché questa aggregazione viene in essere inevitabilmente, è facile capire che non siamo davanti alla semplice somma di un numero, anche considerevole, di rifiuti individuali, quanto di fronte ad una decisione collettiva. E questo all'interno di una realtà che, per proprio compito, diciamo istituzionale, ha quello di impedire qualsiasi aggregazione e di considerare i singoli carcerati come atomi in movimento all'interno di un universo chiuso. Allora, questo di riuscire a prendere una decisione collettiva da parte dei prigionieri è risultato di per sé considerevole. L'avere ad esempio fischiato tutti insieme nel 1997 l'allora ministro di Grazia e Giustizia in visita a Rebibbia è stato un fatto di considerevole importanza, non tanto per la cosa in sé, ovviamente circoscritta ad un semplice dissenso che poteva essere interpretato come di natura accidentale, quanto per il segno di aggregazione che il fenomeno non mancava di portare in evidenza. La stessa cosa riguardo lo sbattere di pentole contro le sbarre delle celle, prolungato per circa un'ora, che venne posto in essere, se non ricordo male, più o meno nello stesso periodo. Lo stesso dicasi per un altro ciclo di lotte, quello della fine del 1990, da me vissuto nel carcere di Bergamo, in cui si sviluppò tutto il raggio delle possibilità, dallo sciopero del carrello allo sciopero della fame, dalla sospensione del lavoro all'interno del carcere alla fermata all'aria, eccetera. Spesso, considerando le cose dal punto di vista di chi si trova fuori, queste lotte in carcere vengono valutate come poca cosa, espressione di una condizione ferita e ridotta al minimo della sopravvivenza. Nessuno si illude. Esse sono di certo solo un piccolo segno di quello che sarebbe necessario fare, ma, nello stesso tempo, sono anche il segno di una conflittualità mai doma, di qualcosa che continua a dormire sotto il comportamento spesso acquiescente della totalità dei detenuti. In prospettiva, l'ideale dei carcerati non è certo quello di migliorare il carcere. Quando gli ospiti coatti si lamentano dell'affollamento, come pure quando cercano di organizzare qualche protesta in questo senso, non lo fanno nell'ottica di chiedere la costruzione di nuove carceri. Questa conclusione sarebbe assurda. Eppure ci sono tecnici del diritto e politici che pensano sia veramente questa la speranza dei detenuti, ottenere cioè col loro comportamento di protesta, se non di lotta vera e propria, condizioni migliori di vita. Le migliori condizioni sono soltanto una tappa intermedia, sono quell'allentarsi della repressione, allentarsi necessario a riprendere le forze, a misurare le proprie capacità di aggregazione, la stessa progettualità di cui si è portatori, per riprendere la lotta con altri obiettivi. L'obiettivo finale resta sempre quello della distruzione delle carceri, di tutte le carceri. Yeah. stiamo ascoltando in sottofondo questa band, che tra l'altro è la stessa band che abbiamo ascoltato prima tra gli interventi, e infatti adesso anche ve la presento. Questa band è una band austriaca, e il loro nome è un acronimo che non ho idea del significato, comunque è IONU, e comunque è un album datato 2012. Io credo anche per questa band sia l'ultima loro uscita, e avevano fatto un CD demo 2 anni prima, nel 2010. Comunque non credo che esistano tuttora questa band, e appunto sono già 10 anni, non hanno fatto nessuna uscita. Comunque il fatto che, come dicevo prima, il nome è abbastanza impossibile da ricercare, perché è una band molto come dire, molto sconosciuta, anche se non c'è nessun dato, sono completamente anonimi, ed è anche questo disco completamente autoprodotto, come c'è anche scritto. Comunque fa solamente riferimento ad una mail, sarebbe da scrivere per carpire qualche informazione. Comunque ora passiamo ad un'altra band, invece una band, anzi è un duo olandese e, se non erro, australiano. Comunque loro sono gli Echo War, e noi ci ascoltiamo un brano, comunque anche più brani, da un loro CD compilation che è uscito dopo 10 anni di, appunto, di attività, ed è datato 1998-2008, cioè non è datato, si chiama 10 Years 1998-2008. E allora ci ascoltiamo questi Echo War. Nothing at all. I'm afraid of ignorant politicians. I'm afraid of censorship. I'm afraid of censorship. Ecco, e quando sono quasi le 9 di sera, siamo sempre su Zardins Magnetics, qua dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine, e stiamo parlando di lotte intermedie, con particolare riferimento alle strutture detentive, quindi le lotte dei prigionieri, che lotte praticabili, diciamo, dai prigionieri nella loro quotidianità, nella loro condizione di segregati e di oppressi quotidiana. E lo facciamo a partire, l'abbiamo fatto finora e continuiamo, a partire da due documenti, e cioè un opuscolo provvisorio che si intitola Carcere e lotte dei detenuti, di Alfredo Maria Bonanno, edizioni Anarchismo, e da due opuscoli prodotti dall'Assemblea No CPR di Torinese, appunto, che si intitolano Riflessioni sulla gestione sanitaria all'interno delle mura del centro di permanenza per il rimpatrio, e l'altro che cos'è un aspettate che non trovo il copertina, che cos'è un CPR proprio. Allora, continuiamo con le riflessioni più teoriche, diciamo, sulla possibilità delle lotte all'interno delle carceri. Ci dice Alfredo Maria Bonanno: il trovarsi a metà strada non significa non distinguere bene l'obiettivo radicale, la distruzione del nemico. Questa distruzione può tardare a venire, ma nella richiesta intermedia, poniamo nella difesa del posto di lavoro, tanto per fare un esempio radicale ma in maniera rovesciata, deve esserci inserita come prospettiva rivoluzionaria la possibilità di un utilizzo in senso distruttivo della forza aggiuntiva ottenuta con la lotta, sia pure nella modestia delle sue dimensioni. Per restare nell'ambito dell'esempio precedente, la distruzione del lavoro. Il linguaggio troppo greve del marciume riformista, che bene o male permea di sé qualsiasi rivendicazione, può così non essere un blocco assoluto dell'apertura verso l'impiego confacente di metodi rivoluzionari, altrimenti in contrasto con le richieste stesse. La nostra presenza nell'ambito delle lotte intermedie, oppure meglio ancora, la nostra presa di iniziativa, il nostro dar vita per primi a panorami di lotta rivendicativa, non avrebbero senso una volta obbligati a seguire metodi non anarchici. ma non si tratta di suggerire ai vari contesti la monotonia rigida delle nostre formulazioni programmatiche, ma inventare di volta in volta un modello di intervento dentro cui calare i metodi rivoluzionari e anarchici della conflittualità permanente, dell'autonomia delle lotte e dell'autogestione del progetto. Bisogna credere nell'efficacia parziale di queste lotte e nello stesso tempo non crederci, né sacralizzazione del metodo realista né rappresentazione scenica di quello che vorrei fosse la realtà. Quello che accade altrove, dove la generalizzazione dello scontro può improvvisamente operare, non sappiamo mai con certezza se ciò sta accadendo in questo momento oppure no, dobbiamo darlo per inesorabile, operare cioè nella sua stessa direzione, ma non pensare di diventare noi i piloti del vascello fantasma. Nessuno di noi ha tanta forza o stupidità. In fondo, non conoscendo la rotta, dove mai condurremo la nave? Darlo per scontato quindi, muoversi con emozione nel senso di qualcosa che si sta attuando e che non conosciamo nei dettagli, forse nemmeno all'ingrosso, ma che possiamo raffigurarci nell'immagine della distruzione di tutto quello che ci opprime, immagine che per diventare quello che per il momento possiamo solo immaginare ha anche bisogno del nostro apporto, della nostra azione metodologicamente orientata verso le condizioni anarchiche della lotta, non verso accordi e concessioni adatti a un realismo politico che ci è sempre stato estraneo. Ecco perché non è facile cogliere la generalizzazione dello scontro, ecco perché occorre che l'eccesso e la sfacciataggine abbiano la meglio sull'oculatezza del buon padre di famiglia che tiranneggia il comportamento di tanti rivoluzionari, notai e ragionieri della propria condizione mortale di sopravvivenza. Il sogno diventa la base concreta su cui misurare il proprio intervento nelle lotte intermedie. Il sogno, non il computo delle adesioni, gli applausi degli stupidi o le speranze computerizzate dei politici. Il sogno è il sogno che rende percettibile il processo della generalizzazione dello scontro, che lo fa diventare qualcosa di vivo sotto i nostri occhi, fuori dall'oscuro movimento che davamo per scontato, ma che non potevano percepire in nessun modo. Il sogno allontana crudelmente ogni velleità realistica, ogni sollecitazione a tenere i piedi per terra, ogni indirizzo organizzativo che si proponga come rimodellatore del mondo, con la vana scusa di migliorarlo. Non si migliora un mondo come questo, lo si distrugge e basta. Le lotte intermedie hanno un'anima distruttiva. Noi siamo la loro anima. E intanto stiamo ascoltando questa band che è un, tra l'altro si tratta di una, scusate, era per dire all'ultimo il nome della band, volevo dire che questo comunque è un album datato 2010, anche queste band non credo esistano più, sono ben due in questo album, uno split, sono appunto i Sand Creek Massacre, che è una band olandese, e una band francese che si chiamano Years of Decay, e appunto noi stiamo ascoltando questi francesi Years of Decay. Continuiamo a parlare di carceri e CPR e di rivolte, rivolte possibili e rivolte anche sognate. Vi è un legame strettissimo che mette in relazione il carcere con la detenzione amministrativa all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio. La maggior parte delle persone recluse nei CPR, trovate dunque senza i documenti in regola, proviene infatti direttamente dal carcere o ha da poco finito di scontare la detenzione ed è stata portata all'interno di queste strutture per essere rimpatriata. Un dato che è molto difficile da reperire, ma che arriva in alcuni casi, come è accaduto nel 2019 nel CPR di Ponte Galeria, anche all'80%. Questa dinamica è stata sicuramente agevolata negli ultimi anni dal decreto legge 21 ottobre 2020 numero 130 della ministra Luciana Lamorgese, che specifica che la reclusione deve essere disposta con priorità nei confronti delle persone senza documenti che siano considerate una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, siano state condannate anche con sentenza non definitiva per gravi reati. non solo un ulteriore legame che mette in connessione il carcere e il CPR, anche in senso inverso, dal CPR al carcere, riguarda le persone che si rivoltano nei centri. Il decreto specifica infatti che è prevista l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa della reclusione in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza. Un provvedimento deterrente che nega persino la dignità di rivoltarsi per le condizioni insostenibili cui sono costrette queste persone e che di fatto condanna chi si ribella ad una detenzione continua, sia essa in un CPR o in un carcere. Tali provvedimenti vanno sicuramente nella direzione di gestire i problemi di sovraffollamento che si vivono quotidianamente nelle carceri italiane, poiché permettono di sgravare queste ultime di un numero di persone destinate al rimpatrio. E stavo leggendo appunto dall'opuscolo che cos'è un CPR prodotto dall'Assemblea No CPR Torinese. E ecco, nonostante però questo potentissimo deterrente costituito da questo circuito perverso carcere CPR CPR carcere e che quindi teso anche a impedire ogni forma di ribellione e di lotta, nonostante questo dal 2002 ad oggi ci sono state tantissimissime rivolte molto radicali che hanno messo letteralmente a ferro e a fuoco i CPR in tutta Italia, e la maggior parte delle strutture sono state distrutte praticamente e rese inagibili molto a lungo e solamente parzialmente poi tra l'altro riaperte proprio grazie alla lotta dei prigionieri. E anche in seguito al trattamento diciamo della pandemia da Covid-19 si sono ripetute all'interno delle strutture dei CPR italiani tantissime momenti di lotta, e appunto come è successo anche nelle carceri. Relativamente ai CPR possiamo ad esempio ricordare che il 15 marzo 2020 nel CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza molte persone recluse hanno portato avanti uno sciopero della fame per diverse settimane. Il 18 marzo a Ponte Galeria le recluse della sezione femminile hanno dato vita a una protesta. Il 22 marzo anche a Gradisca di Sonzo è stato portato avanti uno sciopero della fame per 4 giorni. Il 25 marzo la sindaca di Gradisca di Sonzo ha confermato che una persona condotta il 19 marzo dalla Lombardia nel CPR era risultata positiva al tampone ed è stata messa in isolamento. Pochi giorni dopo, il 29 marzo, sono scoppiate rivolte che hanno distrutto e dato alle fiamme varie stanze del centro friulano. Allora, questo chiaramente sono dati che si riferiscono al 2020, poi ci sono state tantissime altre cose terribili successi all'interno del CPR di Gradisca di Sonzo, e morti e insomma recentemente anche fuori da Gradisca di Sonzo siamo andati numerosi per dare solidarietà ai prigionieri e comunque appunto è giusto ricordare che mai si sono arresi diciamo alle condizioni. E, direi che potremmo continuare con un po' di musica e poi proporre un breve intervento registrato. We'll be right back. E stiamo ascoltando questa band californiana, una band che è esistita fino agli anni 80, fino al 95 circa, e si chiamano Corrupted Ideals. Questo è il loro album datato 1991. Carcere, è iniziata la differenziazione, le varie sezioni, vaccinati, vaccinati poco, vaccinati molto, troppo vaccinati, e pian piano la gente inizia a guardarsi con sospetto e non sa neanche perché. All'interno delle carceri ci sono delle sezioni protette per gli infami, per le persone schifose, e quelli che girano un po' sotto scorta, come anche qua fuori, chi è potente e schifoso gira sotto scorta. Quindi certe divisioni hanno sempre avuto senso di esistere, e il loro senso è che ci sono persone che scelgono di dominare sugli altri, e perciò è giusto che abbiano paura, perché non è giusto che ci sia oppressione, che ci siano soprusi, e quindi un certo grado di paura alla fin fine è concepibile. Ma dopo quelle divisioni lì iniziano tutte le altre: divisione tra detenuti politici e detenuti comuni, tra quelli che hanno problemi psichiatrici, e vorrei vedere chi non ha un senso di profonda sofferenza a stare rinchiuso in una cella. E quindi alla fin fine, pian piano, le divisioni diventano non in ragione di un'esigenza della persona detenuta, ma in ragione di una necessità dei carcerieri di creare divisioni e sospetti, di evitare gli incontri, di evitare gli scambi. Ed è un po' quello che adesso sta succedendo qua fuori. Sempre più ci troviamo divisi, con impossibilità di incontrarci, con sospetti reciproci, con invidie talvolta. E molti di noi di fronte a delle scelte anche drastiche. All'interno di un carcere sappiamo bene che qualsiasi tentativo di alzare la testa, qualsiasi gesto che metta in discussione l'autorità dei secondini, può comportare conseguenze molto dure. Prima si parlava di uno sciopero del carrello, che visto da fuori potrebbe sembrare poco, ma le conseguenze all'interno possono essere molto dure, anche perché si è in balia di chi si rinchiude. E quindi c'è molto da rischiare ogni volta che si fa un passo. E adesso ci troviamo nella stessa condizione anche qua fuori, in cui se decidiamo di non vaccinarci, che è una questione che riguarda anche la nostra idea di salute, di quello che vogliamo per il nostro corpo. Bene, se decidiamo di non rispettare questo obbligo, all'inizio era semplicemente un green pass, un tampone per andare in discoteca, no, le discoteche erano chiuse, per andare al ristorante, uno può dire vabbè, non lo faccio. Poi è diventato per andare a lavorare. Alcuni hanno detto no, non lo accetto. Tanti, tra cui la sottoscritta, ha detto vabbè, devo pure andare a lavorare, e quindi inizia la tarantella dei tamponi. Però già dentro ti senti il magone di aver ceduto qualcosa. E poi pian piano il cerchio si stringe sempre di più, e per alcuni è arrivato l'obbligo vaccinale, probabilmente per gli altri arriverà a breve. e ti ritrovi di fronte alla scelta di dire: che faccio adesso? Mi abbasso del tutto, faccio un vaccino che vuoi che sia, o dico basta? È quello che ho fatto e devo dire che non lo so cosa sarà, perché è da gennaio che non lavorerò, per adesso non me ne sono ancora resa conto, ma arriveranno sicuramente le conseguenze, perché uno stipendio in meno non è poco, ma dall'altra adesso mi sento sollevata, sento di aver fatto qualcosa per una volta, che non è stato piegare la testa, che non è stato accettare passivamente. E sicuramente ci saranno delle conseguenze, ci sono sempre delle conseguenze, ci sono la volta che decidiamo di non rispondere a un secondino, ci sono la volta in cui sul posto di lavoro decidiamo di non fare gli straordinari perché non è un obbligo farli, la volta che decidiamo di non fare un cambio turno o di non fare lavori che non rientrano nelle nostre mansioni. Sono mille le occasioni in cui possiamo decidere di non piegarci e in mille occasioni dovremo affrontarne le conseguenze, piccole o grandi che siano. A volte le conseguenze non sono in campo lavorativo, sono sulle relazioni, sono famiglie che si spaccano. Eppure quel momento in cui decidiamo con la nostra testa e il nostro cuore, beh, dà una gran soddisfazione per quel poco che dura, perché non è che il mondo cambia all'improvviso, però per un istante sappiamo che la nostra vita non è stata decisa da altri, che per una volta è stato nelle nostre mani. Ed è questo quello che volevo condividere con voi oggi. Ciascuno di voi, come ciascuno di noi qua fuori, ha mille motivi e mille ragioni per fare o non fare qualcosa, ma probabilmente il più delle volte è rispettabile. A volte le scelte si fanno semplicemente per quieto vivere e quello è abbastanza triste per quanto mi riguarda. Ma molte volte abbiamo ragioni anche valide per fare ciò che facciamo. Però nel momento in cui per una volta non pensiamo solo a quanto rischiose saranno le conseguenze, beh, è un momento in cui ci sentiamo per un istante liberi. E con questo momento di gioia, per quel poco che durerà, vi saluto. Di ogni autorità, la nostra passione per la libertà è più forte di ogni autorità. Sì, e con questo richiamo tra dentro e fuori, tra fuori e dentro, e così vi saluto e ci sentiamo alla prossima volta. Ciao. Go! Bene, sulle note di questa band inglese che erano i GBH con il loro album d'esordio datato 1981 che si chiamava Studs, Bristers ed Acne, e noi ci salutiamo. Questo è Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle 21:30. Ma prima di salutarci completamente vi ricordo i nostri contatti per chi volesse scriverci. E, allora, chi volesse scrivere via posta elettronica deve, può farlo tramite ovviamente mail, che è liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure può farlo nella solita forma, nel vecchio stile cartaceo, scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121. E inoltre, chi volesse riascoltare questa trasmissione o comunque anche le scorse edizioni di Zardins Magnetics, può farlo andando sul blog che si chiama zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto anche questo, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, questo è tutto, quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì sempre dalle ore 20 alle ore 21:30 qui sui 90 MHz di Radio Onde Furlane che trasmette da Udine. Ciao a tutti e al prossimo giovedì, e vi lascio con i GBH.